Tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio e buona estate a tutti. Laura Vanossi in redazione, Roberto Scaltriti in regia. Più tardi parleremo, ve lo prometto, ma è ovvio, di Valentino Rossi che ha stravinto il duello non con Stoner ma con il commissario Manara, certamente duello della domenica televisiva, strabattuto dal punto di vista degli ascolti il commissario Manara, 3.086.000 spettatori, mentre il clou della giornata in TV è stato proprio il gran premio del ritorno di Valentino Rossi, l'hanno visto un sacco di persone, 5.517.000 spettatori. Più tardi parleremo anche di, se volete, anche di Tour e di Contador Tour sulla graticola dei Pirenei, una sfida selvaggia quello dell'estate del Tour. Ma per cominciare ci sono altri personaggi che mi interessano, sono quelli della chiacchierata estate calcistica, sono principalmente Max Allegri e Balotelli, uno che arriva a Milano, domani comincerà gli allenamenti, incontrerà Berlusconi. L'altro che parte, magari già oggi, anche se Mino Raiola ha detto, ma appena dichiarato, che non c'è fretta, che si può aspettare a chiudere con gli inglesi di Manchester, non si sa bene se quelli rossi o quelli azzurri. Intanto mi risulta sia arrivato Ronaldinho, che ha trascorso la sua ultima serata di vacanze in Brasile così. Eh sì, è 50 Cent, sapete bene, avete visto oggi sui giornali, avrete magari sentito attraverso i siti internet, visto in televisione. Digno torna, non so, caro Andrea Schianchi, amico mio inviato dalla Gazzetta dello Sport, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Non so se per restare o per svuotare l'armadietto. Ma l'impressione è che lui abbia voglia di svuotare l'armadietto, però non credo sia così semplice, perché insomma ci sono un po' di questioni da sistemare. L'impressione però è che lui voglia svuotare l'armadietto, d'altronde se uno vuole rimanere lo dice subito e mette così fine a tutte le voci e a tutte le indiscrezioni che ci sono state nell'ultimo periodo. Invece mi sembra che lui insomma non abbia proprio messo fine a queste voci. Io penso che lui desideri andarsene, però non so se sarà una cosa semplice e possibile. Durante l'inverno, Andrea, credo che sarebbe però un bene per il Milan. Lo credo anch'io, ma infatti quello che ti stavo dicendo, ci siamo trovati spesso d'accordo su un punto, no? Che l'ultima stagione di Ronaldinho è stata ampiamente sopravvalutata, e ci siamo grosso modo trovati anche d'accordo su un altro punto, e cioè che sembra, a parte le forme giunoniche, sembra un giocatore ormai pronto per platee diverse, che siano quelle degli Stati Uniti o degli Emirati Arabi. Sì, sì. Se uno, io penso questo, che se uno fa il cantante lirico, la prima cosa che deve fare è, lo dico parlando dalla città della lirica, cioè Parma, la prima cosa che deve fare è curarsi la voce e possibilmente magari mettersi la sciarpa quando esce, se c'è freddo. Se uno fa il calciatore, la prima cosa che deve fare è curare il suo fisico. Io le foto che ho visto di Ronaldinho con la pancetta eccetera mi sembravano più le foto di un commendatore, piuttosto in che quelle di un atleta a Fregera. Esatto, piuttosto che quelle di un atleta. Allora io da questo evinco, sì, poi dopo è vero che viene, si allena, dimagrisce, asciuga eccetera, però non, io credo che non sia l'atteggiamento che deve avere un professionista, e soprattutto visto che si parla sempre di meritocrazia in questo benedetto pianeta, e soprattutto in questa benedetta Italia, sarebbe ora davvero che ci fosse più meritocrazia. Se uno non si comporta da professionista, non lo faccia. 800240024 è il vostro numero verde, come al solito, per intervenire, valido oggi e tutta l'estate, perché a tempo di sport non va in vacanza. Andrea, parliamo un attimo di Allegri. Oggi leggevo questa intervista sul Corriere della Sera, niente di inedito. Giocatore di grande genio e di poche regole, Allegri. Uno di quelli, sì, classico numero 10 che scappa dalla finestra e che dici avesse avuto più voglia, più grinta, più fame, più voglia di arrivare chissà dove sarebbe arrivato in nazionale, in Coppa dei Campioni. Era il classico numero 10 anni 80-90. Esatto. Poi probabilmente ha avuto, diciamo così, un'inversione di tendenza, perché mi sembra che in panchina sia molto composto, molto puntuale, molto preciso, mi sembra che abbia delle idee piuttosto chiare. Non avrà di fronte un compito semplicissimo, perché insomma la rosa del Milan rispetto ad esempio a quella dell'Inter, ma anche rispetto a quella della Roma, secondo me è più debole. E dopodiché i miracoli sono sempre possibili a questo mondo. Credo però che il Milan, qui parlo dal punto di vista dirigenziale, non abbia fatto alcun passo in avanti rispetto a quello che si poteva pensare, perché è vero che bisogna contenere i costi, sono d'accordissimo, è vero che bisogna cercare di andare a sfruttare i vivai eccetera, però bisogna anche saperli prendere i giovani, e bisogna magari anche andare a scandagliare i mercati particolari. Se i giocatori si prendono soltanto quando sono già arrivati, francamente non ha molto senso. Ma potrei portare mille esempi, c'erano tantissimi giocatori svincolati che magari possono essere utili, però non sono stati visti. È stato pagato, mi pare, 4 milioni e mezzo Papastathopoulos, sì, buon giocatore, ma 4 milioni e mezzo sono tanti. È stato preso un ragazzino come Yepes, c'ha 36 anni, adesso con tutto il rispetto, secondo me in Europa, ma in pensione Favalli abbassiamo un po' l'età media. Sì, però insomma, con tutto il rispetto, penso che in Europa ci fosse qualcun altro al suo livello e soprattutto a parametro zero. Io credo che è inutile poi lamentarsi del fatto che non arrivano i campioni, non è problema che non arrivano i campioni, non arrivano le idee, è diverso. Certo. Beh, ma d'altra parte, sai, anche dal punto di vista dirigenziale, quando per una carriera intera sei andato avanti a perseguire certe linee di mercato con tanti soldi in tasca, e allora non avevi tanto bisogno di operare in quel modo che tu stai dicendo, ecco che diventa poi difficile cambiare anche modo di agire, no? Mi riferisco ovviamente a Galliani, a Braida, al management rossonero. Sai, bisogna fare un lavoro molto diverso rispetto a quello che sei stato abituato a fare per 20 anni. Sì, no, su questo non c'è alcun dubbio, però io sostengo sempre che insomma, il dirigente, secondo me, il dirigente, così come l'allenatore del resto, io credo che bisogna essere grandi allenatori se si allena una squadra che si deve salvare, bisogna essere grandi dirigenti se si gestisce una squadra che si deve salvare rispetto ad una grandissima squadra, perché se mi danno una valigia di soldi, il Chelsea piuttosto che il Manchester United lo allestisco anch'io, così come il Real Madrid. Poi magari non vinco niente, perché Florentino Perez ne è la dimostrazione. Io credo però che è inutile criticare il calcio italiano, dire che non punta sui vivai eccetera, ma non è questione di vivai, la questione è che qua non ci sono giocatori validi, è un po' diverso. Esatto, perché no, il giovane bravo ha sempre giocato in Italia, tanto bravissimo, per dire, cioè Kakà è arrivato che aveva 21 anni, è andato in campo alla prima amichevole e ha sempre giocato. Sì. Pato è arrivato che aveva 17 anni e mezzo, appena compiuto è andato in campo appena potuto. Il problema è che in Italia questi non ci sono. Esatto. E infatti io non ne faccio una questione, nello sport professionistico io non ne faccio una questione di passaporto, so che è una versione un po' impopolare, ne faccio una questione di capacità, di voglia, di rapporto qualità-prezzo. Io sono sempre dell'idea, in qualunque sport, che la via migliore per valorizzare i giovani non sia quello di proteggergli il posto di lavoro. Sia quello. Sono d'accordo. Perché in un ambiente professionistico e professionale non si opera in questa maniera. Andrea, ti chiedo un attimo di pazienza per il traffico, poi facciamo altre due chiacchiere, sempre su Allegri, su Ronaldinho e su questo mio amico Luca Dariccione, che mi scrive: ma dove sarebbe arrivato il Milan senza Digno l'ultima stagione? Non certo terzo, ma che dice? secondo me con un po' meno di Ronaldinho, un po' più di Pato, il Milan, vabbè, a parte il fatto che non c'erano grandi competitors, mi sembra, penso che il Milan sarebbe arrivato terzo anche senza Ronaldinho, e certamente spendendo molti meno quattrini di quelli che ha speso, però queste sono altre storie che tra poco magari faremo. Caro Andrea Schianchi, mi è piaciuta molto la risposta arguta di Allegri alla domanda: ma non teme l'invasione di campo di Berlusconi? Lui astutamente ha fatto notare di essersi allenato per bene con Cellino. Sì, però le invasioni di campo di Cellino sono un po' diverse da quelle di Berlusconi. Mediaticamente hanno un effetto obiettivamente diverso, insomma. Io credo che il Milan, tutto sommato, se l'obiettivo è quello di centrare il terzo posto, ci possa arrivare, perché in Italia non vedo squadre che, io credo che alla fine siano Juve, Roma, Milan e Inter le quattro più forti, tutto sommato. Non vedo, sinceramente, poi è vero, ci può sempre essere la sorpresa, però francamente per come si è messo il mercato adesso credo che siano queste. Sì. Puntavo qualche cosa in più sul Palermo, ma se poi il Palermo mi vende Cavani, sì, è vero, da fiducia a Hernandez, però insomma, se mi vende comunque un giocatore importante, vuol dire che tutto questo grandissimo salto di qualità non ha intenzione di farlo. Sì, mi è un po' sorpreso Cavani, cioè uno che reduce dalla stagione che ha fatto e dal mondiale che ha fatto con l'Uruguay, che va a giocare nel Napoli, che peraltro continua a far collezione di attaccanti di questo tipo. Perché io non lo so il Napoli come farà quando bisogna buttare palla lunga e qualcuno la deve prendere, perché ci sono Lavezzi, Quagliarella e Cavani. Non lo so, franca, studierà Mazzarri, non faccio io l'allenatore del Napoli, però francamente mi sembra un reparto piuttosto debole, ecco, al momento, perché non ha comunque un'alternativa sulle palle alte. Sì. E poi non mi sembra che si sia rinforzato in altri reparti. Sì. Quindi io, tutto sommato, penso che il Milan l'obiettivo del terzo posto lo possa centrare. Il problema è che credo che ai tifosi questo non basti più, cioè non basti arrivare al terzo posto e magari uscire agli ottavi o ai quarti di Champions League. Credo che abbiano voglia di qualcosa di più, credo che abbiano voglia soprattutto magari di divertirsi, perché l'anno scorso un pochino con questa nuova formula, tra virgolette, pazzoide di Leonardo, un po' si sono divertiti questi continui uno contro uno, questa squadra spaccata. Comunque è stata, dal punto di vista tattico, una novità, forse esagerata, sicuramente esagerata, ma dettata dalle condizioni e dettata soprattutto dagli uomini che aveva a disposizione. Credo che Allegri debba tentare questa strada, comunque la strada del gioco, perché la gente ha voglia di divertirsi. Non c'è dubbio. Andrea, visto che parli da Parma e visto che è un ambiente che conosci molto bene, per en passant, come sta il Parma? Il Parma di Marino? Allora, io credo che il Parma stia molto bene, credo che abbia fatto al momento gli acquisti giusti. Penso che qualche cosa possa arrivare ancora in attacco, mi riferisco ad una punta esterna. Io non li ho visti ancora al lavoro, però mi dicono sia molto forte questo Marquez, preso a parametro zero, ecco un altro elemento, preso a parametro zero a 26 anni dall'Espagnol, dopo che comunque era nei 40 della lista di Del Bosque, campione del mondo. E mi parlano benissimo dello svizzero Felscher, classe 1990, difensore centrale inserito subito in prima squadra, e mi chiedo perché le grandi squadre invece debbano sempre andare a cercare giocatori che costano 20, 15, 18 milioni, forse perché magari hanno voglia di buttarli via, probabilmente, ma io consigliere, cioè, se hanno voglia di buttarli via gli do anche volentieri il mio numero di conto corrente. Sì, anche il mio. Però, ma loro vanno a cercare la Griff, no? Vanno a cercare ma la sì, Griff, però insomma, leggo cifre veramente improponibili, non solo leggo cifre improponibili, ma vedo anche poi giocatori che non meritano tutto questo. Cioè, il mondiale mi sembra che abbia dimostrato che senza gioco si va poco lontano, perché il campione serve, ma quando è in forma e quando è inserito in un contesto, sì, se no sicuro. Di Maradona non ce ne sono più. Sicuro. Grazie Andrea, a presto. Grazie a voi. Un abbraccio, grazie ad Andrea Schianchi. 800240024, fatevi sotto perché adesso comincio a parlare con gli ascoltatori. 349-238-6666. È evidente da quello che dite che non avete visto una sola partita del Milan lo scorso anno. Se si critica Roni, cosa dire degli altri campioni? Non so, dite voi. A me Ronaldinho è un giocatore che nella sua intera esperienza italiana non ha mai convinto. Nemmeno l'anno scorso, quando a ogni pallone toccava tutti a urlare assist, assist. Ma quale assist? Ricordo il gol segnato dal Milan a Firenze con quel cross piuttosto molle dalla sinistra, la palla che fa 8 rimbalzi, supera 3 giocatori che sbagliano il tempo e finisce sui piedi di Pato e tutti assist. Ma quale assist? Un normalissimo cross. Piuttosto Ronaldinho ha sempre goduto di ottima stampa, secondo me, eh? 800240024, numero verde. Poi voglio parlare anche dell'altro personaggio che sta per lasciare invece l'Italia, lasciandoci molti più rimpianti di quanto non ne lascerebbe, almeno secondo me, Ronaldinho, qualora dovesse andare in una collocazione attualmente più naturale per lui, Stati Uniti, Emirati Arabi, non so. Filippo, provincia di Brescia, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, io intanto volevo fare una premessa. Mi sento un po' un intruso nel mondo del calcio dopo aver ascoltato i precedenti interventi di gente che di calcio ne mastica molto più di quanto ne mastichi io. Di intrusi non ce ne sono, Filippo. Di intrusi non ce ne sono. Dica. Diciamo, io credo di essere uno sportivo in quanto a pratica di sport, e per me gli sport sono tutti. E su questa considerazione vado a chiedermi la collocazione del calcio nell'ambito dello sport. Mi spiego meglio. Si parla di responsabilità oggettiva da parte delle società, da parte dei club. Sì. Si sono attribuite anche molte responsabilità con sanzioni, anche qualche volta pesanti, sì, in merito a comportamenti dei tifosi. Ma il comportamento dei tifosi, adesso, per quello che ne so io, non sempre esiste un collegamento fra i tifosi e la squadra e il club. Non sempre, ma quasi. Diciamoci sempre, la verità. Diciamoci la verità. Io parto dal presupposto che magari ci sia della gente che si comporti in modo assolutamente illogico, e quindi vabbè, la responsabilità della società a questo punto è tutta da discutere. Però io credo che vi debba essere una responsabilità oggettiva da parte delle società nei comportamenti dei calciatori. Cioè, quando un calciatore mi fa delle sceneggiate, si butta per terra, è vero che lo fa nell'interesse della squadra, però lo sport che fine ha fatto in questi casi? Sì. Allora, lì sì che secondo me la squadra andrebbe, che il club andrebbe penalizzato, perché se si facesse un'adeguata azione morale... Filippo, adesso non perdiamoci troppo lontano, ma se il giocatore, che lei dice fa le sceneggiate, simulazioni e quant'altro, viene sanzionato, no? Viene squalificato in ipotesi, viene sì punito il giocatore, ma viene punita anche la società, non trova? Ma questo è vero, però in effetti ci sono determinati comportamenti che poi scaturiscono con delle sanzioni che poi tutto sommato sono abbastanza lievi, oppure implicano, per esempio, lo si è visto anche ai campionati del mondo, mi ricordo un episodio che ha portato anche all'espulsione di un giocatore che non l'aveva neanche sfiorato. In questi casi la responsabilità della squadra c'è, sì. ha avuto un vantaggio enorme in quel caso lì la squadra. Filippo, guardi, io credo che la società sia responsabile, ma non dal punto di vista delle sanzioni, sia responsabile dei comportamenti dei suoi giocatori, questo sì, ha pienamente gli strumenti per indirizzarne i comportamenti. Ad esempio, io ho detto mille volte che a me non piace la manfrina del continuare a buttare il pallone in fallo laterale, che se avete visto nei mondiali si vedeva molto raramente, no? Il pallone che finiva contro i cartelloni pubblicitari, qui in Italia si vede 80 volte a partita ed è una roba che è di un fastidioso mai visto. Ad esempio, io fossi presidente di una società, obbligherei i giocatori a continuare a giocare fino al fischio dell'arbitro, cioè quello deputato a fermare, l'individuo deputato a fermare il gioco. È soltanto un esempio, però questo per dire che certamente le società hanno gli strumenti per orientare il comportamento dei loro giocatori. Detto questo, è chiaro che se il giocatore simula viene squalificato, rimango sulla posizione di prima, è chiaro che la società ne è penalizzata, non solo il giocatore ma la stessa società ne è penalizzata. Altra cosa quella del togliere le magliette e beccarsi i cartellini gialli. Insomma, io credo che agendo sul versante economico, che poi è quello a cui i giocatori sono sensibili, no? Agendo sul portafoglio, le società possono ottenere i comportamenti che ritengono. Fabio Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, due cose. Uno riguardante il mercato del Milan, sento prima il discorso del suo collega Gino Schianchi, sì, che mi trova d'accordo al 1000%. Praticamente io penso che Allegri sia un ottimo allenatore, che però è arrivato al Milan nel momento sbagliato, e quindi a noi milanisti ci aspetterà un campionato né più né meno di quello dello, sì, scorso anno. Beh, magari in un Milan diverso non sarebbe arrivato Allegri a 46 anni e con non moltissime esperienze. Spero che magari si impegnino di più nella Coppa Italia, che probabilmente è l'unico obiettivo ragionevolmente raggiungibile, e che a noi tifosi del Milan, tifoso medio, tutto sommato non farebbe schifo. E discorso Balotelli, altro personaggio, sì, tra poco ne parliamo, sì. Ecco, io spero veramente che quest'anno abbia l'opportunità di giocare da titolare nell'Inter, fuori dall'Italia, in qualsiasi squadra, perché sono proprio curioso di vedere se questo giocatore, di cui voi, secondo me, a volte esagerando, ne parlate come un fuoriclasse, se sia veramente sto campione che è. Sì. Perché sinceramente fino adesso ha giocato spezzoni di partita, ogni tanto ha fatto bene, ogni tanto ha fatto meno, ha avuto l'opportunità di giocare da titolare nell'Under 21 con i suoi parità, non mi sembra che abbia fatto sfracelli. Io sinceramente ogni tanto rimango un po' perplesso quando sento parlare così bene di Balotelli, come di fosse un fuoriclasse, un campione. Secondo me Balotelli attualmente è come se fosse un po' una crisalide, fa intravedere indubbiamente, certo, delle buone cose, ma è un conto giocare spezzoni di partita, un conto è dimostrare con continuità quello che tu realmente vali, ecco. Questo certamente, però anche giocare spezzoni di partita e incidere in maniera così profonda sulle partite non è da tutti, è chiaro, è da tutti, ma non mi sembra che abbia sempre inciso in maniera profonda, ogni tanto ha inciso, come hanno inciso altri giocatori prima di lui. Guardi, secondo Giovinco me, nella, sì, Juventus, ma Giovinco nella Juventus ha inciso pochissimo, anche perché il campo non gliel'hanno fatto vedere mai. È chiaro che secondo me Balotelli ha un talento straordinario, è il giovane di più grande talento che il calcio italiano stia esprimendo, questa è quasi una banalità. Ha dimostrato di saper entrare ed incidere nelle partite utilizzato in quel modo. Siamo tutti curiosi di vederlo ad una stagione da titolare con la responsabilità sulle spalle, perché è il passo decisivo. D'altra parte, se a Manchester sono pronti a sborsare 30 più 5 più forse 40, quelli che chiede l'Inter, milioni di euro naturalmente, se Mourinho gli telefona tutti i giorni lo vorrebbe a Madrid, insomma una ragione ci sarà, non siamo solo noi che esageriamo. Riccardo Livorno, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Sente? Sì. Sì, niente, volevo sapere un attimino un suo giudizio sulla Fiorentina, quale sono simpatizzante. Sì. Visto che anche il suo collega prima ha citato quattro squadre escludendo completamente la Fiorentina. E poi volevo fare un riferimento alla correttività, all'essere corretti nello sport, perché io vedo il calcio, però sono giocatore di rugby, sì, e nel rugby non esiste la simulazione, pure sì, nel, sì, rugby le botte si prendono, ma certo, quando uno sta per terra è perché veramente si è fatto male, certo. Nel calcio soltanto lo spostamento d'aria in, certo, piede, o sembrano tarantolati. Sì, no, ma più che altro, ma guardi, ma quello può anche stare, che non ci sta è che venga continuamente interrotto il gioco dagli altri giocatori, è una cosa, è un mal costume che è molto nostro e che è un finto fair play, perché non è fair play quello. E dunque so benissimo che nel rugby si continua a giocare, entrano in sanitario in campo, sono regole differenti, insomma è un altro modo di vivere, di comportarsi nello sport. Ciò che a me non piace, se la si finisse con questo pallone sparato in falo laterale ogni volta che un giocatore cade per terra, ecco che anche quelle scene da tarantolati che lei dice forse sarebbero ampiamente ridotte. Approfittavo per leggere i messaggi. Ronaldinho è e sarà sempre un campione, state cannando sul suo conto. Caro ascoltatore, ha dimenticato uno stato che ci stava meglio, no? È stato, non sarà più un grande campione, secondo me, sulla via del tramonto, ma lo dice, insomma, se fosse davvero un grande campione sarebbe la fila alla porta del Milan, visto che ha detto che vuole andare via. Risulta che alla porta del Milan ci sia il Galaxy. Il Flamengo che lo vuole a zero soldi, Milan vuole 10 milioni come sapete. oppure mi ha nebulizzato gli Zebedè l'estate scorsa con Kakà, avendo torto, non so perché avevo torto, su che punto, però se mi telefona Emiliano magari facciamo prima e chiariamo. Adesso comincia con Digno, parli della palla spicchi, ma volentieri, parlerò sempre con grande piacere di palla spicchi, ma anche di calcio. Capisco che lei non apprezzi Ronaldinho, lei è quello che ritiene Maradona un grande mister, mai detto che Maradona sia un grande allenatore, mai, e non lo considero un grande allenatore, lo considero un grandissimo personaggio. Lei è quello che diceva che l'Argentina avrebbe battuto la Germania, per forza ti favo Argentina. Lei è quello che riteneva l'Olanda migliore della Spagna, mai ritenuto l'Olanda migliore della Spagna, semplicemente in finale simpatizzavo per gli Orange. Diciamo che ha le sue idee, più che altro, caro ascoltatore Marco da Trento, le mie simpatie, credo che non sia reato. La realtà è un po' diversa e vabbè, le cose non vanno sempre bene quando si parteggia per qualcuno. A proposito di mondiali, una volta nel corso delle nostre serate mondiali vi ho presentato un grande artista e un grande interista, soprattutto un genio della cucina come Davide Oldani. Buon pomeriggio Davide. Ciao, buon pomeriggio. Grazie. Buongiorno a tutti. Senti, io sto sempre aspettando una tua visita, conto di materializzarla in un lunedì pomeriggio di questi. Assolutamente, volentieri. Adesso poi sono in vacanza, quindi grande, sarà tempo per... Cosa hai mangiato a pranzo? Cosa ho mangiato a pranzo? Un po' di stracciatella di bufala e un pane casereccio, basta. Certamente sei più in forma di Ronaldinho, eh? Ma sicuro, ci tengo un po' di più alla linea, visto che lui ormai è arrivato, credo sia. Lo credi anche linea. Tu? Dall'altra parte del naviglio lo vuoi, lo preferisci contro o lo preferisci? No, sono per gli sportivi, per i professionisti, per quelli che giocano, che fanno spettacolo. Quindi lui lo ha fatto nei tempi del Barcellona. Adesso dovrebbe curarsi un po' di più invece di magari pensare ad altro, però. Se al Milan sono contenti così va anche bene. Sei contento anche tu? Rinfortano quello che è la mia squadra. Sei contento anche tu? Senti, ma il punto è un altro, è Balotelli. Balotelli che sarà ceduto magari oggi, anche se Raiola dice che non c'è fretta. Ma ti pare una buona idea la cessione di Balotelli? Secondo me siamo in una condizione, cioè l'Inter, di poter decidere con tranquillità, e l'ha dimostrato il presidente. Credo sia una grande operazione che stia facendo l'Inter. Perché lui è comunque un ragazzo giovane sul quale ancora bisogna vedere cosa farà e come farà. Sì. E quindi non credo molto in Balotelli. Poi magari verrò così giudicato male per questo mio pensiero. Però io credo che un professionista, un grande campione, lo debba far vedere anche un po' fuori dal campo, un po' con la testa. E lui non credo che in questo momento ci sia. Io ho sentito invece molti interisti dire io avrei ceduto Milito, avrei fatto soldi cedendo Milito che ha 31 anni, e avrei tenuto Balotelli per farlo esplodere da titolare vicino a Eto'o, poteva essere. No, posso azzardare di un'altra cosa, io avrei ceduto, certo, Milito, Maicon e Balotelli. Io. Tutti e tre. Perché poi sappiamo tutti come si lamentano i presidenti della Serie A, che insomma c'è crisi, non spendono, eccetera. Quindi questo è l'anno, secondo me, in cui l'Inter possa... O può pensare di fare cassetto in maniera tale che si prepari per un'altra annata, cioè non questa ma quella successiva, anche se comunque questa annata potremo giocarcela tranquillamente, perché Juve sono e d'accordo. Milan rispettivamente sono un po' indietro con le preparazioni, anche con i giocatori. Quindi quelle mosse che sta facendo il presidente, secondo me, sono apprezzabilissime sotto il profilo imprenditoriale. Io invece un giorno vorrei vedere un presidente che vende tre giocatori e fa uno stadio, pensa un po'. Ma magari il nostro arriverà, il nostro grande presidente, il progetto dello stadio so che ha qualche anno che ci sta pensando, perché... quindi credo che sia una mossa probabilmente futura, però quello che dobbiamo guardare è il quotidiano ci dice che comunque siamo i campioni in carica e siamo quelli che comunque anche quest'anno partiranno favoriti. Sì, senza troppe discussioni. Davide, via Balotelli e accadrà dentro Mascherano e Kait, faticatori anche straordinari nel caso di Mascherano o Mascherano per dirlo all'Argentina, ma il genio è un'altra cosa. Il genio è un'altra cosa, ma il genio è veramente un'altra cosa, dico anch'io su Balotelli. Bisogna poi dimostrarlo, abbiamo visto ai mondiali. Cioè, sono arrivati in finale due squadre che non avevano questi grandissimi fuori classe, avevano un team di persone che giocava per la squadra. Sì. Se non sbaglio Messi piuttosto che Ibrahimovic, addirittura neanche presente ai mondiali, piuttosto che è venuto fuori un certo Snyder che è stato scartato dal Real Madrid, piuttosto che David Villa che comunque ha 26-27 anni, 28 anni, quanti anni ha? e non è il fuoriclasse di 20 anni che ha cambiato il mondo come potrebbe o credo che qualcuno possa fare, tipo Balotelli. Sì, parlavi di team e di lavoro di gruppo eccetera, io leggevo una tua intervista, anche in cucina si opera più o meno allo stesso modo, la cucina di un grande ristorante. Ma sì, ma soprattutto il mio libro, l'ultimo libro che ho fatto, ho parlato della cucina pop popolare e il gioco di squadra. Il gioco di squadra è quello che ti permette di arrivare a grandi risultati, lo dimostra il fatto, tornando al discorso dell'Inter, che c'è stato uno spogliatoio molto unito e come ha detto anche ultimamente Mourinho, la squadra è stato il gruppo che ha vinto, non è stato il singolo e non è stata questa grande squadra che faceva spettacolo, è stato proprio il gruppo unito che ha permesso di vincere. Certo, e così anche nel ristorante. E così anche nel ristorante. Dai, ti faccio notare ancora questo, Davide, prima di salutarti. Con Mourinho è stata, con Balotelli è stato, tra Mourinho e Balotelli è stata battaglia continua, senza quartiere. Adesso lo chiama tutti i giorni per convincerlo a raggiungerlo al Real Madrid. Strano anche questo. Ma è strano, lui è un po' un mercenario, Mourinho. Io non l'ho mai apprezzato tanto, lo apprezzo perché comunque ha fatto vincere la mia squadra solo con lo sforzo del mio grande presidente. E voglio ricordare a tutti che a 30 minuti dalla fine del secondo tempo di Inter-Siena noi eravamo secondi del campionato. A 30 minuti dalla fine, stando a 10 partite dalla fine del campionato, a 14 punti sulla seconda. Quindi è nato così, è andato fortunato, gli è andata bene, io sono più che felice. Adesso se lui vuole tirarselo là, basta che il presidente Real Madrid paghi il nostro, basta. Sì, finita lì, non c'è dubbio. Ma da questo punto di vista, credo che stiamo ancora aspettando soldi da quelli del Real Madrid, dal famoso Ronaldo che gli abbiamo ceduto. Sì, cioè, ci sono un po' di soldi che vanno e vengono su quell'asse, anche Snyder è da completare il pagamento, però finirà tutto in un unico conto, io credo, adesso se va anche Maicon e chissà Balotelli. Davide, grazie. Grazie a voi, grazie. Un abbraccio. A voi. Grazie a Davide Oldani, che aspetteremo in questo studio uno dei prossime puntate di questa lunga estate. Adesso io torno a parlare con gli ascoltatori, Luca da Verona, Andrea da Milano, Nicola da Bari. Già in linea, non mi sono dimenticato della Fiorentina. La Fiorentina, insomma, il mercato della Fiorentina. Vede, questa è la considerazione che la Fiorentina ha a livello nazionale. L'ascoltatore le ha chiesto cosa pensava dei Viola e lei se ne è dimenticato in 10 secondi. Non me ne sono dimenticato in 10 secondi, semplicemente la Fiorentina aspetto di vedere in campo e soprattutto aspetto di vedere cosa potrà fare l'allenatore che è stato scelto per guidare questa squadra e sul quale io continuo ad avere qualche perplessità, insomma, per proseguire il lavoro che è stato fatto da Prandelli, che si è un po' arrestato, diciamoci la verità, l'anno scorso. Adesso è stato preso Mihajlovic, io qualche perplessità ce l'ho e me la tengo fino a prova contraria. Luca Verona, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Io volevo un suo parere riguardo alla gestione di Giovinco che è stata fatta nell'ultima stagione della Juventus. Sì. Cioè, secondo lei non gestione. Valeva la pena. L'ha messo in panchina e l'ha lasciato lì. Sì, non valeva la pena comunque, quando ormai la stagione andava come andava, insomma, a provare questo giovane. Sì, valeva la pena, ma anche prima, anche prima secondo me, perché se ritieni che sia un talento e non lo fai giocare mai, nemmeno quando certamente non vinci tutte le partite, anzi il contrario, beh, allora vuol dire che non ci credi, e se non ci credi lo vendi, come sta facendo la Juventus, e Giovinco andrà a Parma, a quanto pare, vediamo se lì trova spazio. Io credo che comunque Giovinco abbia pagato i suoi rapporti non splendidi e anche la sua, insomma, il fatto che per caratteristiche siamo sempre stati in concorrenza, i suoi rapporti non splendidi e questo fattore con Capitan Del Piero, sempre molto pesante nelle scelte degli allenatori juventini negli ultimi anni. Andrea da Milano, buonasera. Sì, buonasera. Io volevo chiederle invece un parere. Premetto, io sono milanista, io le partite del Milan le ho viste e devo dire che condivide in pieno il suo giudizio su Ronaldinho. Sì. Nel senso che ha una partita. Cioè, Andrea, parliamoci chiaro: la stella offensiva del Milan è Pato, non Ronaldinho. Guarda, io sono d'accordo. Poi devo dire una cosa: io ho una partita appena sufficiente di Ronaldinho, ne alternava quattro che erano veramente scasse. Quindi, poi vabbè, va valutata il merito della squadra, i meriti di Ronaldinho, eccetera, eccetera. Però io vorrei dire una cosa, oltre al fatto che Ronaldinho è un po' spompo, io penso che proprio la società Milan sia spompa, o no? Sì, ampiamente, ma sì, ma per molti motivi, insomma, è stata cambiata in maniera dichiarata ed esplicita la politica societaria e tutto il resto grosso modo è rimasto inalterato, quindi semplicemente si è tolta la corrente del denaro che prima arrivava e il resto va avanti un po' d'inerzia finché ce n'è, fino a che i contratti non scadono. Quindi al cambio deciso di politica economica, di politica di investimenti del Milan, non è seguito un'inversione di tendenza da tutti gli altri punti di vista, vuoi manageriale, vuoi gestionale, vuoi di ringiovanimento del gruppo, vuoi di altre strategie alternative di mercato. Semplicemente ci sono questi contratti pesantissimi, ad esempio Ronaldinho costa 16 milioni di euro l'anno al Milan perché ne prende 8 netti, eccetera eccetera, sono contratti molto onerosi che scadranno alla fine della stagione che sta per cominciare, e dunque poi vediamo, anche se il Milan sarà rimasto, come viene continuamente detto, nelle mani dell'attuale proprietario. Nicola, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno. Innanzitutto complimenti per la trasmissione. Grazie. Perché sono veloce anche perché date spazio a noi, quindi la cosa è importante. Il bene più prezioso, poi è la cosa più bella parlare con voi. Dica. Chiamo da Bari, quindi esaltato al campionato scorso. Bari o Cassano, di che parliamo? Bari, meno male. Perché... Insomma, anzi, scusate se mi intrometto, tra Milan e Inter noi ci accontentiamo del Bari, che comunque l'anno scorso ci ha fatto vivere delle giornate veramente fantastiche. Ma secondo me è stata la squadra che ha vinto lo scudetto qualità-prezzo. Io ho visto quasi tutte le partite, obiettivamente delle partite erano veramente saltanti, cioè a prescindere dal nome dei giocatori che c'erano, si vedeva uno schema, cosa che difficilmente si è visto l'anno scorso negli stadi italiani. A prescindere da questo, volevo sapere se anche quest'anno il Bari magari può regalarci queste giornate, e mi ricollego anche al discorso Giovinco, se magari può essere una pedina importante negli schemi di Ventura. Questo sì. Io sarei un po' scettico obiettivamente su Giovinco, ma non per il giocatore, ma per il tipo di giocatore che forse per il Bari non è il massimo. Ma non lo so, sarebbe, secondo me invece potrebbe essere una grande idea. Mi risulta però che Giovinco, nonostante l'interessamento del Bari, finirà per andare a Parma. Quanto alla stagione che verrà del Bari, mi limito a una considerazione di carattere generale, anche molto banale, cioè è stato certamente una sorpresa il Bari, con giocatori insomma presi per la maggior parte in prestito ad altre squadre, rivitalizzati a fine carriera, mi viene in mente Donati, insomma ne avete avuti parecchi da quelle parti nell'ultima stagione. La banalità è che dopo una stagione così quasi miracolosa, anche se questa parola nello sport mi piace pochissimo, ripetersi è veramente complicato. Mi auguro piuttosto che il Bari sappia insomma valorizzare qualcun altro oltre a Bonucci e Ranocchia, come è stato fatto in questa stagione, perché quella è stato il più grande risultato ottenuto dal Bari al di là della classifica. Bonucci e Ranocchia, ma anche Alvarez, perché non dimentichiamo anche giovani stranieri che sono andati lì, hanno fatto molto bene. Adesso però io vorrei un attimo cambiare argomento. Sport e motori. Sì, non sono mai stato così felice per un quarto posto, ecco. No, sono contento di come è andata, di essere riuscito a guidare, e soprattutto grande battaglia alla fine, mi sono proprio divertito. Purtroppo mi manca un po' di feeling ancora con le gomme nuove, infatti nelle due partenze ho sempre perso troppo tempo e mi sono sempre ingarellato con altri, soprattutto nella seconda gara ho perso tempo con Dovizioso, purtroppo, sennò anche Lorenzo non era troppo lontano, ecco. Poi evidentemente sono una grande motivazione per tutti, ecco, perché Stoner, quando mi ha visto, si è messo a girare fortissimo, quindi dalla prossima gara mi vestirò da un altro pilota. Come ho detto in apertura, Valentino Rossi batte il commissario Manara 5-3, milioni di telespettatori. Naturalmente Valentino Rossi andava dopo pranzo ed è stato il record televisivo, andava in onda dopo pranzo, record televisivo della domenica sportiva, e commissario Manara in prima serata su Rai 1, però resta questo 5-3 che secondo me fa anche un discreto rumore. Certo è che ieri dopo pranzo tutti gli occhi degli italiani erano per... per quel signore zoppicante. Mario Poltronieri, buongiorno. Buongiorno, ciao Carlo, buongiorno a tutti. Sì, il signore zoppicante è stato veramente eccezionale. Vedo che ha voluto di nuovo ricordare i due secondi dei due giri che ha perso con Dovizioso, perché chiaramente avrebbe avuto più possibilità di superare Stoner, non è certo, ma diciamo l'avrebbe avuto, e quindi avrebbe potuto occupare il terzo posto, e sarebbe stato il coronamento eccezionale di una giornata che comunque è da considerare particolare, perché mi ha stupito non tanto il fatto che Valentino abbia ripreso a correre dopo 40 giorni, perché direi che è una cosa abituale per i motociclisti. Se andiamo a vedere nella loro carriera, è raro che un motociclista ci metta tanto tempo a guarire. Giustamente Valentino ha ricordato, fossi un calciatore dovrei sì aspettare 5 mesi, sì. Ma siccome tanto sono seduto sulla moto e c'è il motore, problemi non ne ho. Mi sembra un po' semplicistica come spiegazione, che è seduto su un conto se ti siedi sul 125 e vai al bar, un conto se sedersi su quelle moto lì. Però insomma, ne parlavamo quando si è fatto male, no? Il tempo di riuscire ad infilare la gamba nello stivale, Valentino Rossi torna a correre, è stato così. Sì, ma per me la cosa eccezionale è come lui ha padroneggiato la corsa, come se avesse completamente dimenticato la prudenza, i rischi, i medici, diciamo così, normali, fuori dal giro, che dicevano è un folle a correre. Invece lui ha corso, veramente ce l'ha messa tutti, perché ha un grande temperamento, perché l'idea di poter battere qualcuno dei suoi grandi avversari era quello che lui desiderava. Cioè, sapeva oltretutto che sarebbe stato un rientro che avrebbe fatto, come tu ricordavi, grande scalpore, grande popolarità, eccetera. Ma però, come ti dico, la cosa che mi ha stupito di più è proprio questa sua capacità di dimenticarsi l'incidente e di correre come avrebbe corso prima. Sì. Perché guarda, io ho esperienze di piloti nel tempo in cui seguivo molto da vicino il motociclismo, mi ricordo Barry Sheen. Barry Sheen è passato alla storia come Iron Man, e si dice, non c'è una statistica precisa, ma che avesse 44 fratture e 33 fra piastre, chiodi e viti. E tanto è vero che mi ricordo che le ultime corse che si fecero con la partenza spinta, lui non riusciva più a spingere la motocicletta. Sì. Quindi, però in Valentino è eccezionale questa sua capacità di continuare a essere nel posto dove dovrebbe essere, cioè tra i quattro grandi protagonisti che concorrono per il podio. Certo. Detto questo, se ieri fosse riuscito a mettere mezza ruota davanti a Stoner, sarebbe stato l'uomo più felice del mondo, perché certo. Perché ieri in quel duello ce l'ha messa veramente, veramente tutta, per riuscire ad arrivare davanti a quella che sarà la sua prossima moto. Tra l'altro ha detto, ha anche un po' ironizzato, no, su questo fatto: in Yamaha non mi vogliono più, mi lasciano andare cosa volete, sono vecchio. Esatto, bellissima battuta anche quella. Ma io ho avuto perfino la sensazione che lui, correndo contro Stoner, guardasse la moto con l'idea di dire: beh, c'è da migliorare questo, c'è da fare quell'altro, eccetera. Perché credo, tu dici che si è portato avanti col lavoro? È una delle doti eccezionali di Valentino, quello di saper mettere a posto le moto. Voglio vedere Stoner quando sarà la Honda, se la Honda non va bene come andava, come è andata quella di Pedrosa. Ieri andava benissimo. Si tratta di vedere. Adesso mi dispiace solo che Valentino ha avuto il problema con Dovizioso, perché secondo me Dovizioso ieri ha corso con la preoccupazione del suo futuro, perché l'arrivo di Stoner chiaramente gli chiude la possibilità della squadra ufficiale. Ora, tutte le promesse di dargli la stessa moto, sappiamo benissimo che la terza, la quarta, la quinta moto non è mai uguale alle prime due, quindi vedere cosa riesco a trovare. Sentivo anche la possibilità, per esempio, che prendesse il posto di Valentino Yamaha, potrebbe essere invece di Space lui, però diciamo, credo di giudicare per quello. Alla Yamaha, secondo te, nel momento in cui liberano il vecchiaccio Valentino Rossi, come, perché non serve più, tanto è vecchio, e nel momento in cui puntano tutto su quello che sarà il prossimo campione del mondo, e cioè Lorenzo, e non ho grandi dubbi su questo, conviene mettersi in casa un pilota emergente di grande agonismo, di grandi qualità come Spies? No, Lorenzo certamente non ne avrebbe piacere. E quindi se Lorenzo diventa padrone di quel team, cioè, tra virgolette, è difficile che voglia, che voglia sedersi sulle puntine, no? No, sicuramente, sicuramente. Hai accennato al discorso del campionato. Effettivamente il San Valentino ha 111 punti di distacco. Mancano 10 gare, cioè ci sono un massimo di 250 punti disponibili. Se Lorenzo ha fatto bene, direi, arrivare secondo, non rischiando con un Pedrosa così veloce, perché tra l'altro andando a vedere le punte di velocità, la moto di Pedrosa aveva mediamente, cioè la somma di tutti i giri, più di 3 km all'ora di velocità superiore a quella della Ducati, e Valentino andava ancora più adagio. Quindi dicevo, nella corsa al titolo effettivamente Valentino non è escluso, però bisognerebbe che vincesse sempre e che Lorenzo non arrivasse sempre secondo. Sono calcoli abbastanza fantascientifici, secondo me. Mario, grazie, ci sentiamo a stretto giro di posta. Grazie. Okay. Grazie a Mario Poltronieri. A questo proposito voglio ricordare, insomma, non è casuale quella sigletta che vi ho fatto sentire prima, che tra l'altro è una sigletta che conoscete perché parte della nostra programmazione, però una delle novità di questa estate estiva di A Tempo di Sport sarà proprio quella di farvi sentire quella sigletta ogni giorno, perché come sapete i motori sono lo sport dell'estate e ogni giorno ne parleremo. Chiudiamo invece la puntata di oggi con Paolo da Mestre e poi aggiorniamo la seduta domani alle 2. Paolo, buongiorno. Sì, pronto. Pronto, dica. Dov'è la stazione? Dove si trova? Paolo, dov'è? Da dove chiama? Chiamo dall'autostrada. Dalla A4. Com'è il traffico? Senta, volevo intervenire sull'argomento che aveva toccato Andrea Schianchi prima, quando diceva che i giovani tipo Pato o Cacà in Italia non ci sono. E su questo ha ragione al 100%, però restando al Milan, ad esempio, Leonardo ha fatto giocare con molta continuità Antonini e Abate, che non sono assolutamente del livello degli altri due, ma che almeno sono normali e magari giocando qualche anno potrebbero anche far del bene alla squadra. Sì. Non sarebbe il caso che qualcun altro provasse a far giocare giocatori di quel livello lì, almeno. Sì, sì. Ricordo ad esempio il Costa Curta del primo anno, i primi due anni era un altro livello, poi è cresciuto. Certamente, no, certamente. Ma la mia opinione è che Leonardo povero ha fatto giocare quelli perché quelli aveva. Sono due giocatori diversi, che Antonini secondo me non è e difficilmente diventerà, anche perché non è più giovanissimo, un giocatore di alto livello internazionale, certamente un buon giocatore. Abate è un giocatore più giovane, molto interessante, che tra l'altro ha giocato buona parte della stagione in un ruolo non suo come quello di esterno difensivo, e dunque esperimenti, prove tecniche di futuro in questo caso. E certo, bene ha fatto Leonardo ad accantonare poi quello che, per limiti di anagrafici e di usura, quello che sarebbe poi stato il terzino titolare della spedizione italiana ai mondiali del Sudafrica, cioè Zambrotta. Ha rinunciato anche a Gattuso, Leonardo, per lunghi tratti, anzi per l'intera stagione in pratica. Gattuso ha giocato pochissimo, complice gli infortuni che ha avuto. E Abate e Antonini sono stati una delle note certamente più liete della stagione del Milan. Ne parliamo domani, che dite? Alle 2, alle 3 siamo qui, tutti i giorni di quest'estate, da lunedì a venerdì. Grazie a Laura Vanossi per il lavoro in redazione, a Roberto Scaltritti in regia. Buona giornata.